100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Dovremmo abituarci al fermento che ieri ha contraddistinto i titoli, alcuni dei titoli in borsa delle banche popolari. Ieri è stata la volta del Popolare di Milano e del Banco Popolare, più volte sospesi per eccesso di rialzo e volatilità, sono stati tra i titoli più forti dell'intero listino, assieme a un'altra banca popolare, UbiBanca. Il motivo è presto detto: la Banca Popolare di Milano è la sposa, diciamo così, più contesa. Il mercato scommette che si arriverà a un matrimonio alla pari con il Banco Popolare, quindi un asse Milano-Verona, ma c'è anche chi scommette che l'altro pretendente, UbiBanca, e quindi Brescia e Bergamo, possa ancora essere della partita. Detto così, potrebbe sembrare semplicemente un'operazione tra tre banche lungo l'asse Milano-Verona, ma in realtà questo è solo l'inizio di un fenomeno innescato dal decreto del governo che ha trasformato e trasformerà le banche popolari in SPA, in società contendibili. Con il rischio però che alcune, e nel caso specifico il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa degli Risparmi di Genova, vista la loro fragilità, possono non trovare un pretendente. L'andamento dei titoli degli ultimi giorni starebbe a segnalare questa freddezza degli investitori verso il Monte dei Paschi e la Cassa degli Risparmi di Genova, anche perché non è aria e non è tempo di matrimoni per procura. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il Senato oggi ha approvato la nuova legge delega per la riforma degli appalti pubblici. Si tratta di una legge che potenzialmente può avere un impatto economico davvero significativo. Basta ricordare un numero per capirlo. Il sistema degli appalti pubblici nel nostro paese vale più di 100 miliardi di euro all'anno. Tante risorse, tanti soldi pubblici, troppo spesso purtroppo spesi male. Il ministro Graziano Del Rio ha assicurato che l'attuazione della legge delega avverrà in pochi mesi, così da mandare in pensione gli oltre 600 articoli che compongono l'attuale codice degli appalti. E il primo obiettivo della nuova legge, in effetti, è proprio la semplificazione, perché in questo ambito la complessità delle norme, le deroghe alle regole hanno consentito gli abusi e le ruberie che ben conosciamo. Anche per questo il cuore della riforma è il nuovo ruolo dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ora guidata da Raffaele Cantone, che avrà molti più poteri sia per assicurare la correttezza delle procedure sia per garantire l'effettiva esecuzione delle opere. Le novità sono numerose sulle gare con i bandi tipo che garantiranno trasparenza, ci saranno meccanismi più efficaci per evitare gli aumenti di costi legati alle varianti in corso d'opera, per ridurre il contenzioso che spesso blocca i lavori per anni e anni. Insomma, le premesse per arrivare a un sistema più efficace ci sono tutte. Vedremo se il governo riuscirà a costruirlo velocemente. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.